e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sono belli i tuoi orecchini. Adesso li fotografo, da donna di esatto. cuore. Esatto, no, guarda, se c'è qualcuno che è curioso può vederci in diretta in questo momento su Facebook e possiamo anche salutare i nostri ascoltatori con Eccoli cui stiamo qua. Facendo questa piccola sfilata di moda questa mattina a gioielleria. Voilà. Allora, ecco, si parte. Segnaliamo anche che non ci siamo vestite dello stesso colore, quindi la settimana parte un po' in conflitto. No, direi di no, siamo però sul grigio milanese, sullo scuro milanese con questo inquinamento, noi ne parleremo nel corso della trasmissione, sì, certo. Perché come sempre torneremo, noi monitoriamo. Monitoriamo tu per quello che riguarda la qualità dell'aria e tutto quello che respiriamo. Guardavo questo weekend il livello di sporco della mia auto, Nicoletta, e pensavo, quando è che non la porti a lavare? Da un po'. Detto questo, diciamo che quel pulviscolo sul vetro si è intensificato e mi son detta, tu guarda che cosa respiriamo in questi giorni, quindi sono quanto mai importanti le rilevazioni appunto anche di cuore e denari che tra stiamo facendo. Tra poco ne parleremo col dottor Arari e noi ne parleremo anche dal punto di vista dei polmoni. E non ne parleremo invece dal punto di vista dei trasporti, perché certo se circolassero un po' meno auto, se fosse più facile e più conveniente circolare con i mezzi pubblici, direi che saremmo tutti più contenti, e quindi faremo un punto della situazione anche su questo. Però prima di tutto direi di partire anche con la partenza della settimana finanziaria. Andiamo. Chissà com'è venuto questo filmato, va Marco, va adesso a caricare, no, era già live appunto su Facebook con il telefono della pannocchia. Allora, mercato europeo questa mattina tutto in rosso, vedo Parigi che perde lo 0,84%, Francoforte meno 0,56%, Londra meno 0,74% e Milano, maglia nera d'Europa, meno 1,67% sul FTSE MIB. Sono tantissimi temi da commentare e allora, siccome il piatto è ricco, mi sono fatta aiutare questa mattina in questo avvio di settimana dal nostro Luca Di Scacciati, trader, analista finanziario di investire.biz, che salutiamo. Buon inizio settimana Luca, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Allora, intanto segnalo subito che a Piazza Affari c'è un solo titolo positivo, è ST Microelectronics, guadagna lo 0,32%. Per il resto tutto in rosso e cali anche diffusi e forti sui big del settore bancario, a cominciare da UbiBanca che perde il 5%, UniCredit meno 4%, Yux Net-a-Porter meno 3,27%, Tenaris meno 2,88%. Prima di scandagliare nel dettaglio i temi della giornata e quelli che saranno i temi della settimana, di Scacciati le faccio sentire una cosa a piacere, Pippo, vediamo un po' che cosa capisco benissimo, hai cominciato l'anno del gallo, come ben sai Deborah. Esatto, a parte che anche il mio dal punto di vista dell'oroscopo cinese è il mio segno. E però pare che porti buono per i mercati finanziari, di Scacciati. Ma, allora, l'anno del gallo, il precedente anno del gallo è stato il 2005, anno che per la nostra borsa è stato molto positivo, quindi speriamo che anche quest'anno sotto il segno del gallo porti bene al listino, ecco. Ma c'è anche un'altra, come dire, un'altra segnalazione da fare, perché mi raccontava, mi viene da dargli del lei, poi del tu, Luca, diciamo che, ecco, febbraio c'è sempre una tendenza interessante per il mercato finanziario, esatto, che se si conferma, esatto, anche quello è un buon segnale. Noi siamo positivi sui mercati a tutti i costi. Qual è questo segnale da tenere sotto osservazione, allora, nei prossimi giorni? Gli ultimi giorni di gennaio e i primissimi giorni di febbraio sull'indice italiano negli ultimi 7-8 anni sono sempre stati molto negativi, appunto giorni che poi hanno però lasciato spazio a dei vigorosi rialzi, quindi abbiamo appunto questa statistica che ci dice appunto che a parte il 2013 poi dai ribassi proprio di questi primi giorni dell'anno, di questi primi giorni di febbraio, poi vengono generati dei notevoli rialzi, quindi insomma speriamo pure che notevoli, tra l'altro, così. Noi ci stiamo esponendo tra il gallo e questa, esatto, e questo, esatto. Abbiamo ben due segnali, esatto, due segnali che ci dicono se arriva una positività. Correzione la batosta, io e lei non ci dobbiamo far più vedere, appunto ci dobbiamo nascondere da qualche ma parte. Questi sono, commentiamo solo dei dati, poi chiaramente il futuro non lo possiamo predire. Bravissimo, non facciamo più previsioni. Detto questo, le possiamo fare nel brevissimo termine. Allora, prima di andare agli scenari internazionali, mi soffermerei un po' su Piazza Affari, perché qua stamattina ci sono già dei temi degni di nota. UniCredit meno 4,5 punti. Allora, l'aumento di capitale da ben 13 miliardi è dietro l'angolo nelle prossime ore, forse direttamente già oggi, forse domani o dopodomani, ma credo che sia imminente. C'è la riunione del consiglio di amministrazione della banca che deve fare il punto su dei temi importanti, il prezzo dell'aumento di capitale, ma anche in che qualche modo entrare nella partita di Intesa San Paolo su Generali. Discacciati, le vostre previsioni, i vostri commenti su questo? Ma allora, partendo dal fatto che siamo comunque tendenzialmente positivi sui mercati, noi pensiamo appunto che questi ribassi che abbiamo avuto in inizio di settimana siano anche dovuti al fatto che il PIL americano sia sui minimi dal 2011, quindi attendiamo di vedere un po' tutti i dati di questa settimana per insomma avere delle conferme di un ritorno alla positività sui mercati. Unicredit sì, questa mattina è molto, molto penalizzata, nervosa, sì. Cosa che spesso capita appunto sotto aumento di capitale, certo, quindi esatto. Non niente di preoccupante. Perché per emettere le nuove azioni probabilmente appunto dovrà effettuare uno sconto anche abbastanza significativo, si parla di circa il 40% appunto sulle nuove azioni, per cui il mercato si assesta anche su questo. UbiBanca meno 5, il fondo Atlante ha firmato un memorandum of understanding, si dice, per l'acquisto di oltre 2 miliardi di crediti deteriorati di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria, Nuova Carichieti, che saranno acquisite da UbiBanca. In calo anche il settore dell'uso, le stanno squillando un sacco di telefoni, ti stanno squillando Luca, Unipol meno 3, Yux Net-a-Porter meno 3, Andrei ai titoli appunto con prestazioni un po' meno negative, ma qua il rosso è diffuso, adesso anche STM perde smalto e va sulla parità. Brembo meno 0,3, Prismian meno 0,4%, Mediaset meno 0,59%. C'è da segnalare che il gruppo ha dovuto smentire ancora di non aver pronti accordi con Vivendi. Titoli di Stato discacciati, lo spread è risalito sopra i 180 punti base, oggi è una giornata ricca di appuntamenti per il Tesoro. Non so se li ha monitorati. Sì, esatto. Ci sono delle aste in uscita, quindi anche queste da monitorare. Proprio in questo momento l'indice è passato all'oltre meno 3%, quindi siamo sotto i 19.000 punti proprio in questo momento, cosa che sta scatenando un po' di volatilità, un po' di speculazione proprio sull'indice. Sì. Siamo appunto a 18.967 in questo momento, quindi davvero c'è molta volatilità, altissima volatilità come ci si aspettava appunto. Mi scusi, a quale indice fa riferimento? L'indice italiano. Il FTSE MIB? In questo momento, sì. Allora io non ho l'aggiornamento, appunto probabilmente devo verificare anche cosa sta succedendo sulla mia piattaforma. Per quello che riguarda invece altri temi di carattere internazionale, sentiamo un po' un altro contributo, Pippo? Allora, questo è il miglior toro che noi abbiamo potuto trovare questa mattina di Scacciati e qua andiamo sull'altro suo grande cavallo di battaglia, sempre per continuare con gli animali, che è il mercato americano. Allora, settimana scorsa siamo andati a 20.000 punti sul Dow Jones. Tu eri sempre stato molto positivo appunto sugli Stati Uniti. C'è da verificare prossimamente se tutte queste iniziative che sta assumendo il nuovo presidente americano Donald Trump saranno incorporate dal mercato con un po' di tensione. Detto questo, questa è nuovamente la settimana invece della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve. Esatto, mercoledì avremo il FOMC, quindi la riunione della Federal Reserve, anche se non è particolarmente importante questa riunione in quanto non ci sarà la conferenza stampa. Mercoledì sempre avremo in America la disoccupazione e nella giornata di venerdì il dato in assoluto più importante, le buste paga del settore non agricolo, un dato che sui mercati sempre crea una volatilità davvero, davvero accentuata, quindi esatto. Insomma una giornata importante e domani abbiamo anche il discorso di Mario Draghi della BCE. Ecco, qua il drago non ce l'avevamo stamattina e non era il caso neanche di cercarlo. C'è stato questa mattina in avvio di seduta, io gli dico che il FTSE MIB a me fa meno 1,77% di Scacciati, quindi vorrei capire un po' meglio che tipo di rilevazione stai monitorando tu, quali gli do una volta del tu, una volta del... Non vorrei dire una cavolata, però io ho un altro dato, in questo allora... momento 18.977. Allora, andiamo... Volete che ne legga un terzo io? No. Ecco. Eni, vorrei andare ad Eni, perché stamattina c'è stato anche questo scivolone appunto del gruppo del cane a sei zampe, sempre per continuare appunto sulle similitudini animalesche. Il titolo perdeva il 5%, gli operatori hanno parlato di un errore tecnico per quello che riguarda un ordine di emissione, ma tu hai trovato anche altre notizie, Luca. Esatto, esattamente. Infatti c'è una decisione da parte della la Nigeria di bloccare momentaneamente un giacimento che la compagnia gestisce in joint venture con Royal Dutch Shell, in quanto sembrerebbe che l'acquisizione di questo giacimento di petrolio sia stato poco trasparente e ci sono delle ombre appunto riguardanti una possibile accordo appunto non troppo trasparente tra dei politici della Nigeria e queste compagnie. Quindi in questo momento questo giacimento è bloccato secondo appunto il Financial Times e questo è un giacimento davvero enorme perché è un giacimento da oltre 9 miliardi di dollari, quindi un giacimento che coprirebbe la produzione della Nigeria per oltre 10 anni, quindi probabilmente sì, l'apertura negativa è stata dovuta a questo. Intanto l'euro è a 1,0691 sul dollaro. Per gli ascoltatori che chiedono come vadano stamattina i titoli generali ed Intesa San Paolo, sono entrambi in calo di circa 2 punti percentuali, in attesa anche di novità che potranno arrivare nelle prossime ore sul dossier apertissimo Intesa San Paolo alla conquista di Generali. Insomma, sarebbe stato anche secondo la stampa di questo fine settimana un weekend di lavoro su questa importante operazione. Entrambe i colossi appunto finanziari sono impegnati con i propri advisor per studiare i contorni di questa operazione molto complessa e anche molto ambiziosa. Luca Di Scacciati, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Buona giornata, grazie. Ti auguro una buona giornata. Chissà perché non ci riesco a dare... Vabbè, ma è poco così, alla volta. Tengo le distanze. Allora, sono le 10.45 precisissime, andiamo al traffico e poi andremo anche alla rassegna stampa di cuore. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Cuore e denari. E per la rassegna stampa di Cuore torniamo a parlare di prevenzione dei tumori. La ricetta la conosciamo bene, i medici la ripetono da anni, stile di vita sano, test di screening dei tumori della mammella, dell'utero e del colon, come raccomanda e fornisce anche ai cittadini il Sistema Sanitario Nazionale, ma si deve e si può fare di più. La ricerca è sempre al lavoro e l'obiettivo è riuscire a intercettare il tumore nelle fasi iniziali, quando è ancora piccolo, piccolissimo, e quindi maggiore è la sua probabilità di guarigione e minore anche il rischio degli effetti collaterali legati alle terapie. Ci siamo quasi. In linea con noi per fare il punto della situazione il dottor Giuseppe Petralia, vice direttore della radiologia dello IEO. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Allora, dottore, parliamo di un passo avanti nella diagnosi precoce. Qualcuno parla di una rivoluzione. È un esame in grado di scovare tumori solidi di 3 o 4 mm che sfuggono agli screening tradizionali. Il professor Veronesi la chiamava la scatola magica, ma il suo nome è Diffusion Whole Body. Di che si tratta? Ci vuole spiegare la portata di questo esame e perché rappresenta un passo avanti nella diagnosi precoce? Bene, la Diffusion Whole Body è un esame di risonanza magnetica innovativo che permette di studiare l'intero corpo in circa 30 minuti senza radiazioni e senza l'utilizzo di mezzo di contrasto. Come viene fatta? Si fa con una macchina di risonanza magnetica che è normalmente in commercio, che tuttavia deve essere configurata in maniera apposita tramite implementazioni aggiuntive hardware e software, in maniera tale che l'esame possa essere da una parte confortevole per il paziente, quindi durare circa 30 minuti, e dall'altra soprattutto avere elevatissime performance diagnostiche. Infatti noi con la Diffusion Whole Body riusciamo ad avere performance diagnostiche paragonabili a quelle di tecniche consolidate come la TAC e la PET ad esempio, che però espongono il paziente a radiazioni ionizzanti e necessitano del mezzo di contrasto. Quindi è un esame non invasivo? Sì, del tutto non invasivo, il costo biologico è zero e nonostante tutto abbiamo valori di sensibilità intorno al 90%, un basso tasso di falsi positivi intorno al 5%, come dimostrato da numerose pubblicazioni scientifiche. Dottor Petralia, ma come funziona? Qual è l'idea che possiamo dire sta alla base di questa metodica? Che cosa legge? Allora, l'idea, il concetto che è alla base è la motilità microscopica delle molecole di acqua. In pratica la Diffusion Whole Body è in grado di rilevare la motilità microscopica delle molecole di acqua, detta diffusione. Le molecole di acqua, quando sono in un ambiente ipercellulare, come ad esempio il tumore, dove le cellule sono molto vicine tra di loro, è come se fossero intrappolate e quindi si vedono brillanti, molto brillanti alla risonanza magnetica rispetto ai tessuti sani circostanti. Questo ci consente di identificare in maniera molto migliore i tumori e di distinguerli rispetto ai tessuti circostanti. Riusciamo a vedere in alcuni casi tumori anche di 3-4 mm. Quindi, questo è un grosso vantaggio. Quindi e poi, molto piccoli. Molto piccoli. E l'altro grosso vantaggio è che possiamo farlo in tempi ragionevoli sull'intero corpo. Riusciamo a fare ottime ricostruzioni tridimensionali dell'intero corpo e questo facilita l'analisi e quindi alla fine la diagnosi per i pazienti. Dottor Petralia, verrebbe da dire troppo bello per essere vero. Quali sono i limiti? Purtroppo infatti dei limiti ci sono. Innanzitutto la disponibilità di macchine di questo tipo, sono macchine abbastanza costose, quindi sul territorio non sono così disponibili, ma purtroppo un limite ancora maggiore è costituito dalla formazione, nel senso che come tutto in medicina è necessario aver visto centinaia di questi casi prima di essere performanti come la letteratura e quindi prima di poter essere utili per i nostri pazienti. In Europa sono pochi centri in cui questo esame viene eseguito in alti volumi, in centinaia di casi l'anno. Lo facciamo all'OIEO, alcuni grossi ospedali di Londra come Royal Marsden, il Mount Vernon Cancer Center e qualche centro in Asia. Quindi formazione. Formazione, parola d'ordine, ma anche, dottor Petralia, questo non significa che questa metodica sostituisce gli altri esami? Assolutamente no, e quindi la ringrazio per questa domanda. Mi consente di puntualizzare che questo è un esame che deve essere fatto in aggiunta rispetto agli screening tradizionali della sanità pubblica, quindi mammografia e pap test per le donne, ricerca del sangue occulto nelle feci, deve essere fatto in aggiunta e mai sostituire questi esami, perché vuole un grado di rassicurazione maggiore su tutti gli altri organi, detti organi orfani, perché nessuno mai li va a valutare. All'OIEO viene utilizzato per, dottor Petralia, seguire i malati, per controllare chi è ad alto rischio di recidiva, per cercare eventuali metastasi, anche per le donne in gravidanza e i pazienti molto giovani, è corretto? E quindi in ogni caso quello che volevo sottolineare è che è un esame dedicato alle persone malate, anche se, da come lei ce l'ha descritto e come già i nostri ascoltatori stanno intuendo, potrebbe essere un ottimo strumento per la diagnosi precoce nelle persone sane. Questa opportunità si è pensato dall'inizio, naturalmente, dottor Petralia, sì, immagino. Guardi, allora, nei pazienti oncologici, noi siamo partiti da lì, è stata la nostra palestra l'oncologia e ormai lo facciamo in centinaia di casi e tra l'altro è suggerito dalle linee guida internazionali, per esempio nei mielomi, nei tumori alla prostata avanzati. Però l'opportunità di avere sensibilità e performance diagnostiche così elevate a un costo biologico zero inevitabilmente sin dall'inizio ci ha fatto riflettere sull'opportunità di offrirlo a una fascia più ampia di popolazione e in particolare ai soggetti sani con finalità di diagnosi precoce. Il problema è che i costi elevati impediscono che la si possa proporre come uno screening per la popolazione generale. Sicuramente. Perché insomma lei ha detto che queste macchine ce ne sono poche, però è interessante che un'iniziativa di un gruppo di imprenditori lombardi cosa ha fatto? Ha deciso di aprire un nuovo centro e di utilizzare questa metodica anche per la prevenzione oncologica delle persone sane. È un centro, l'ASC, che pur essendo un centro privato e quindi a pagamento, non ha scopo di lucro, quindi è un esempio di imprenditoria sociale. Infatti gli eventuali utili saranno reinvestiti proprio nell'allargamento del centro per acquistare altre due apparecchiature, ma anche per finanziare l'accesso, pensate, a prezzo basso in meno abbienti in una percentuale del 10% del tempo macchina. Dottor Petralia, un esempio di imprenditoria sociale che introduce quindi la prevenzione avanzata nello stile di vita delle persone sane, ma è un'opportunità che potrebbe però portare ad un utilizzo inappropriato dell'esame. Insomma, il privato cittadino può effettuarlo solo per rispondere a una sua personale esigenza di così, prevenzione? Quali sono i rischi? La ringrazio davvero per la domanda che mi consente anche in questo caso di chiarire. Sicuramente sono d'accordo con lei, la diffusion whole body è sicuramente una nuova opportunità che oggi hanno le persone sane per avere un livello di rassicurazione maggiore rispetto agli screening tradizionali che, ribadisco, devono essere comunque fatti. perché vede, non è invasivo, vede i tumori solidi a un 3 o 4 mm, quindi in uno stadio in cui non vengono ancora intercettati dagli screening tradizionali, e soprattutto, come lei ha sottolineato bene, va a indagare anche gli organi orfani, dove non ci sono attualmente degli screening. Detto questo, mi sembra di aver così riassunto un po' le caratteristiche di questo esame. Tuttavia è necessario, come in tutto in medicina, affidarsi a centri seri dove operano medici che si siano formati nella grande palestra dell'oncologia, che siano abituati a distinguere in maniera inequivocabile ciò che è benigno da ciò che è invece patologico, e quindi sappiano rassicurare immediatamente chi sta bene e viceversa indirizzare tempestivamente verso le cure qualora ci fosse un reperto sospetto o un tumore. Allora, dottor Petralia, sicuramente torneremo a parlare di screening, di diagnosi precoce. Intanto io la ringrazio, le auguro una buona giornata e do la linea a Deborah che voleva... Ah no, solamente per una piccola precisazione, per le incongruenze appunto del nostro collegamento di borsa. Stamattina una giornata piuttosto negativa su Piazza Affari. Abbiamo avuto appunto un piccolo conflitto di informazioni tra me e Luca Di Scacciati, perché le mie piattaforme appunto correttamente ci dicono che Milano perde il 2%. La sua indicava... A parità di prezzi sul FTSE MIB appunto meno 3, il dato corretto è il nostro, quindi meno 2 punti. È una giornata negativa, ma non è proprio... negativissima. Esattamente. Quindi questo è quanto volevo precisare. Mi sono confrontata appunto con Luca Di Scacciati poco fa, un piccolo problema legato all'andamento, appunto al funzionamento della sua piattaforma. Detto questo, abbiamo assestato tutto, meno 2% Milano, con i titoli particolarmente pesanti, UBIbank e Unicredit, che perdono 5 punti e mezzo. E tutto, andiamo al giornale radio, Nicoletta? Volentieri. Grazie, tra poco. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan e Leonardo Manera ti aspettano domenica 5 febbraio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Cuore e denari. Allora, torniamo insieme a bordo di Cuore e Denari in questo lunedì. Il treno, un mezzo di trasporto che, se preferito all'auto, garantirebbe, lo sappiamo, anche una qualità maggiore dell'aria che respiriamo, oltre a possibilmente molto meno stress per noi. Un tema che è davvero all'ordine del giorno con i dati così preoccupanti sull'inquinamento che ci troviamo a commentare in questi mesi, e tra poco, no? Nicoletta, ci torniamo sì, anche con la pagina di Cuore. Sì, certo. Allora, all'800240024 vi chiediamo di raccontarci se viaggiate in treno abitualmente. Siete pendolari? Raccontateci la vostra situazione, se siete contenti del servizio offerto, oppure, sappiamo che è forse più probabile, qual è il disagio che vivete? Ritardi, treni cancellati all'ultimo minuto, se viaggiate con le frecce, avete appreso del cambio di binario, è proprio il caso di dirlo, sul prezzo degli abbonamenti alta velocità di Trenitalia. Dopo la forte protesta vibrante montata che c'era stata nei giorni scorsi, l'azienda ha deciso di tagliare gli aumenti previsti e di rimborsare la differenza a chi ha già comprato il titolo di viaggio di febbraio con il prezzo maggiorato. Più tardi ci spiegheranno i signori di Trenitalia come intendono restituire questo importo e perché hanno preso questa decisione. E intanto però, come primo approfondimento, volevo in realtà dedicarmi ad altro, proprio al tema dei pendolari italiani. Allora ringrazio e saluto per essere con noi Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, perché abbiamo interpellato Legambiente? Perché ogni anno questa importante e nota organizzazione pubblica il rapporto Pendolaria, che dà il polso della situazione di chi viaggia in treno sul territorio nazionale. Cosa avete fotografato, Zanchini, quest'anno? Quali sono le priorità da affrontare dal vostro punto di vista? Ma quest'anno raccontiamo un aumento leggero del numero dei pendolari in Italia che prendono il treno, che sono qua più di 2.800.000 quelli che prendono i treni regionali, che sono appunto quelli, i treni che sono in larga parte di Trenitalia, ma anche di altri concessionari, e poi ce ne sono 2.700.000 che invece prendono le metropolitane nelle città italiane, per cui insomma parliamo in tutto di quasi 5,5 milioni di abitanti, di cittadini italiani che ogni giorno prendono i treni, ed è già un numero rilevante. Perché però è preoccupante il fatto che aumenti poco il numero dei pendolari del treno? Da un lato perché noi avremmo bisogno invece di sempre più persone che lasciano a casa l'auto per, appunto, per le ragioni che diceva lei prima. Per far respirare le città, esatto. Noi naturalmente, ma anche per stressarci un po' meno, perché non è detto insomma che prendere l'auto continuamente sia come dire un fattore di vantaggio per tutti noi, no? Io adesso per faccio anche il portafoglio, ecco, nel senso che si spende molto meno carburanti con i mezzi pubblici, certo. Oltre all'ambiente, insomma la vivibilità delle nostre città, certo. Allora perché crescono a un ritmo così contenuto il numero delle persone, appunto, diciamo, che prendono i mezzi pubblici rispetto all'auto? E purtroppo la ragione è che la situazione è molto diversa da una parte all'altra del paese, perché negli ultimi 15 anni sono avuti due grandi cambiamenti nel trasporto ferroviario. Il primo è l'apertura al mercato, per cui noi abbiamo ora sull'alta velocità le frecce, gli Italo, la concorrenza che ha portato più treni, qualità, velocità, insomma tutto quello che vediamo in positivo. L'altro grande cambiamento che c'è stato è il trasferimento alle regioni del servizio ferroviario regionale, cioè quello locale. Il problema è che questo trasferimento che è stato, diciamo, che le regioni hanno approfittato di questa opportunità un po' in ordine sparso. Esatto, in più lo Stato a partire dal 2009 ha ridotto del 20% i trasferimenti, e quindi che è successo? Che con il 20% di risorse in meno le regioni hanno dovuto negoziare i contratti con le società che fanno il servizio, in alcuni casi tagliandolo, per cui in larga parte del centro-sud, ma anche in alcune regioni del nord come il Piemonte, si è proprio tagliato il servizio, cioè ci sono meno treni e i treni sono sempre quelli. Altre regioni, perché appunto bisogna poi raccontare tutto sempre in negativo, sono delle regioni invece in cui hanno messo delle risorse proprie e qui i pendolari aumentano. Esempio, in Lombardia, in Emilia Romagna, in Toscana, in questi anni il numero di pendolari è aumentato. In Lombardia siamo arrivati a 700.000 persone ogni giorno prende il treno. Certo. Perché? Perché non sono stati fatti i tagli, la regione ha trovato le proprie risorse e quindi almeno si è garantito quel servizio. In altre regioni questo non è avvenuto. In più, una delle ragioni per cui i pendolari si lamentano è che l'incrocio tra questi tagli delle regioni e il lento inesorabile, sembrerebbe, calo degli intercity ha portato a ridurre qualsiasi offerta di treni, in particolare al centro-sud, certo, dove neanche arriva l'alta velocità, per cui chi abita in Sicilia ha visto meno treni regionali in ordine del 10% e meno intercity, per cui alla fine i treni praticamente ci sono solo su alcune tratte, sulle altre hanno degli orari ed è una lentezza tale che è veramente un'avventura. In un paese che avrebbe un bisogno disperato di ampliare la sua rete infrastrutturale, invece in questi anni si è assistito, sono sempre dati tratti dal vostro rapporto, alla chiusura di oltre 1120 chilometri di linee ferroviarie, cui vanno aggiunti oltre 400 chilometri di rete ordinaria che risulta sospesa per inagibilità dell'infrastruttura. Zanchini, senta, so che qualche associazione dei consumatori ha storto un po' il naso per il fatto che siate andati ad indagare su questi aspetti, e qualcuno dice, ma insomma magari un'organizzazione di quel tipo deve occuparsi della qualità dell'ambiente, delle problematiche legate all'ambiente. Perché siete andati anche ad esplorare questo tema del pendolarismo italiano, approfondendolo fino a questo punto? Beh, perché intanto oramai questa visione dell'ambientalismo è superata da tempo, e anche perché la nostra idea dell'ambientalismo, quella lega ambiente, è quella per cui deve essere anche in qualche modo deve proporsi anche come soluzione ai problemi, perché appunto non possiamo solo denunciare l'inquinamento delle nostre città, dobbiamo anche capire quali sono le possibili soluzioni, e tra le possibili soluzioni indubbiamente, oltre alla riqualificazione edilizia, insomma, c'è anche il tema del trasporto pubblico, e anche qui bisogna entrare nelle questioni, perché se si, come dire, una prima raccontavo dei cambiamenti avvenuti nella liberalizzazione delle trasferimenti alle regioni, anche perché appunto un errore che si fa spesso, lo fanno anche, in particolare le associazioni dei consumatori, è quella di prendersela con le Ferrovie dello Stato, con Trenitalia, quando Trenitalia oramai è un operatore di un servizio, che va trattato come un operatore di un servizio. Quello che noi mettiamo in evidenza invece è quanto lo Stato investe qui o investe da altre parti. Invece pensiamo che si investa troppo in autostrade, strade, anche nei sussidi all'autotrasporto, e le stesse regioni che hanno la responsabilità di questo servizio, ed ecco appunto con loro tra virgolette che bisogna prendersela, se appunto in Campania sulla circumvesuviana negli ultimi 5 anni si è ridotto del 30% il numero dei treni che circola. È con le regioni che bisogna prendersela. Ho capito. Allora si fermi lì, che magari la faccio interagire anche con il nostro prossimo ospite, se ce ne fossero i margini e i presupposti, anche se adesso andiamo a scandagliare proprio nello specifico appunto un tema di carattere economico. Nel frattempo ci ha raggiunto anche il nostro terzo ospite di oggi. Intanto saluto e ringrazio per essere con noi Marco Mancini, portavoce responsabile dei rapporti con le associazioni dei consumatori per Trenitalia. Mancini, buongiorno e grazie. Buongiorno a voi, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno. Perché abbiamo interpellato appunto Trenitalia per la notizia che ha destato grande attenzione in queste ultime settimane. Trenitalia ha deciso di dimezzare gli aumenti per gli abbonamenti dell'alta velocità dopo questa protesta molto forte che c'era stata nei giorni appunto in cui la decisione era stata presa. L'azienda poi ha deciso di tagliare gli aumenti previsti, ma soprattutto rimborserà la differenza a chi ha già comprato il titolo di viaggio a febbraio. E allora intanto chiedo agli ascoltatori di intervenire all'800 24 00 24. Quanto aumento avevate registrato appunto per il vostro abbonamento? Siete degli abbonati di Trenitalia e soprattutto siete a conoscenza di questa iniziativa pro consumatori che il gruppo ha deciso di prendere? E ringrazio anche per essere con noi il nostro grande esperto di trasporti, Furio Truzzi, presidente di Assoutenti. Buongiorno. Buongiorno, eccoci. Sentilo come sempre contento di essere con noi. Lo credo. Ad inizio anno, peraltro, con Truzzi facciamo sempre un punto della situazione, le autostrade, le strade di tutti i tipi, insomma, che anno sarà per i viaggiatori italiani. Questo mese addirittura si è guadagnato la doppia presenza. Allora, Mancini, cominciamo con lei. Ci ricostruisce la vicenda: quando erano stati annunciati questi aumenti, chi riguardavano, di quali entità stiamo parlando, adesso invece qual è l'effettivo livello dei prezzi? Quindi stiamo parlando di abbonamenti all'alta velocità, ovvero sia di un prodotto, chiamiamolo così, che Trenitalia ha emesso ed emette da sempre di propria iniziativa, autonomia, senza, e questo giova ricordarlo a tutti, che ve ne sia un obbligo, tant'è che la concorrente, la società che compete sull'alta velocità con Trenitalia, ha smesso di emetterli. Già li abbiamo già abbastanza bastonati anche No, per ma questo conviene sempre comunque chiarire questo aspetto, certo, che non è di poco conto. Come per tutte le cose, è ovvio, tutte le aziende fanno delle cose per spirito commerciale, secondo quello che gli conviene fare. Non è un obbligo per voi appunto proporre degli abbonamenti ai vostri clienti, si fanno per fidelizzarli, per aiutarli, no? È fondamentale però questa precisazione, perché abbiamo parlato prima di treni regionali e non tutti sanno che il biglietto e l'abbonamento del treno regionale copre, sì e no, un terzo dell'effettivo costo del servizio. Il restante lo mette, come spiegava Zanchini, la regione con proprie risorse, risorse che vengono trasferite allo Stato, risorse aggiuntive che le regioni possono o non possono trovare. In questo caso l'abbonamento che comporta, l'abbonamento AV, che comporta uno sconto, una riduzione sul costo quotidiano del viaggio intorno al 70-80%, è un'iniziativa anche dal punto di vista finanziario a totale carico di Trenitalia. Trenitalia ha deciso di diversificare gli abbonamenti. Prima c'era un solo abbonamento, adesso ce ne sono quattro tipologie diverse per differenti esigenze dei pendolari, e poi ha agito sull'unica leva di cui dispone, quella dei prezzi. Ha agito con un aumento che è intervenuto dopo che i prezzi erano fermi da oltre sei anni, ad eccezione di un piccolo ritocco sulla Torino-Milano, e ha agito aumentando due categorie di abbonamento e diminuendoli rispetto al prezzo precedente altre due, quindi a seconda delle situazioni che ogni singolo cliente poteva vivere e vive, ha avuto un aumento dell'ordine del 35%, quello meno utilizzato perché quello riguarda anche il sabato e la domenica, quello invece, diciamo, del pendolare classico, il pendolare che lavora 5 giorni su 7. Al venerdì 5 giorni, l'aumento era del 20%. C'è stato, questa è cronaca, una reazione da parte ovviamente dei pendolari in primis, degli abbonati in primis, stiamo parlando di circa 7.000 abbonati medi in tutta Italia, che costituiscono rispetto ai pendolari, quelli diciamo classici del treno regionale, circa un 1%, perché noi abbiamo sui regionali di Trenitalia, questo numero è importante perché Zanchini prima ha ricordato quanti siano complessivamente i pendolari. Noi su Trenitalia registriamo ogni giorno circa 1.600.000 viaggi, questo significa che mediamente abbiamo sulle 800.000 persone, 700-800.000 persone, se si immagina che vanno a lavoro e poi giustamente ritornano a casa nel pomeriggio. Quindi 7.000 sono gli abbonati a Trenitalia a cui era stata, tra virgolette, riservato questo aumento, appunto, che avrebbero dovuto subire questo aumento del prezzo dell'abbonamento. Beh, direi che tra questi 7.000 sicuramente una percentuale molto ridotta, ma qualcuno probabilmente ha anche risparmiato, cioè abbiamo anche un certo numero di abbonamenti venduti a scontati con quello sconto del 5 e del 15% rispetto al prezzo iniziale. Comunque, la sollevazione appunto dei consumatori e delle associazioni dei consumatori c'è stata, voi avete fatto questo dietrofronte che a sua volta, va pure detto, è stata molto apprezzata. Quanto vi costa questa marcia indietro, Mancini? Più che un dietrofronte si è aperto un dibattito, e credo sia molto importante, perché appunto questa nuova categoria di pendolari, quelli dell'alta velocità che erano inimmaginabili fino a qualche anno fa, comportano, come dire, un problema, comunque una riflessione, perché a differenza, ripeto, degli abbonati dei treni regionali, il loro abbonamento e la riduzione del costo è a totale carico di Trenitalia. Ma se un treno, come accade, più di un treno, si riempie al 90% di pendolari, quel treno ha un costo che non è sostenibile rispetto ai ricavi. Siccome stiamo parlando di treni a mercato, quindi stiamo parlando di treni che devono essere pagati esclusivamente dalla vendita di biglietti e di abbonamenti, questa riflessione va fatta, perché le alternative che un'azienda può avere in questo caso sono due: o agisce sui prezzi, o se un treno è in perdita, se un treno a mercato, il treno viene tagliato. È un ragionamento assolutamente ragionevole. Detto questo, per una persona che magari spende 500-600 euro al mese per un abbonamento, per avere anche una certa flessibilità nella possibilità di utilizzare i viaggi, se lo vede aumentare improvvisamente di almeno 100 quando l'aumento del prezzo dell'ordine del 20%, magari, ecco, tutto questo lo va a come dire, ad informarsi su questi aspetti magari in un secondo momento, prima deve subire il contraccolpo della novità. Prima di farla terminare, Mancini, voglio subito sentire il commento delle associazioni dei consumatori, perché la novità della rimodulazione e quindi la marcia indietro, come l'ho chiamata io prima, non è passata inosservata. Le associazioni dei consumatori, che si erano subito sollevate contro i rincari, a suo tempo Truzzi ha fatto sapere di apprezzare molto la decisione, e però ha anche detto dell'altro. A questo punto va sollecitata invece la conferenza delle regioni affinché venga siglato un contratto di servizio per l'alta velocità. Che cosa intendete su questo? Qual è stata la vostra posizione su tutta questa vicenda? Beh, innanzitutto all'inizio è stata di forte critica, poi chiaramente quando si fa una marcia indietro non possiamo che apprezzare. Detto questo, come ricordava Mancini, noi siamo come associazione dei consumatori fortemente intenzionati a chiedere che ci sia un contratto di servizio anche per i pendolari dell'alta velocità. Insomma, l'alta velocità non è più il treno dei sciur, per dirla alla milanese, no? È il treno anche dell'umile lavoratore che ovviamente risparmia sul tempo, perché il mezzo è veloce, no? Quindi, perché il tempo è denaro. Perché il tempo è denaro e non è solo cuore. È qualità, no? Della vita, esatto, certo. E quindi da questo punto di vista non è che dobbiamo aspettare adesso di nuovo le calende greche, insomma. Quindi chiediamo che alle primissime riunioni della conferenza delle regioni ci sia un'apertura di un confronto con Trenitalia per fare dei contratti di servizio anche nell'alta velocità, non dimenticandosi ovviamente dei pendolari tradizionali, soprattutto delle tariffe sovraregionali. Mancini sa che nei prossimi giorni ne discutiamo col suo gruppo, perché c'è anche il problema tra i 1.000 e 1.000 pendolari, e questi sono circa 70.000 che scavallano da regione a regione, da Caserta a Roma, da Milano a Piacenza, da Genova a Torino. Insomma, tutti questi pendolari hanno un problema che li coinvolge, che sono tariffe più care del dovuto. Certo. Senta Mancini, tornando a lei, per chi ha acquistato l'abbonamento a prezzo ancora maggiorato e che adesso avrebbe diritto invece all'abbonamento scontato, so che avete in mente di fare questa restituzione, non avete però ancora detto con che modalità. Lei stamattina può anticiparci qualcosa? Sì, senz'altro. Intanto una buona notizia, mi preme darla per Torino e Milano, per i pendolari, perché da oggi abbiamo inaugurato, ovviamente con il sostegno e con la scelta tattica fatta dalla Regione, 4 nuove corse regionali veloci che in 1:33 collegano Torino con Milano Porta Garibaldi. Mm. L'abbonamento al regionale, l'abbonamento mensile costa 159 euro. Per quanto riguarda il rimborso agli abbonati AV che hanno pagato e che pagheranno, perché la questione è questa, che è tale il risparmio che si ha con l'abbonamento e qualcuno potrebbe continuare a comprarle anche a febbraio questo abbonamento, quindi abbiamo deciso che il rimborso sarà attivato dal 1 marzo. Certo. E il rimborso avverrà con le varie opzioni possibili, dallo storno sulla carta di credito, al bonifico, all'assegno, al bonus, sarà il cliente a chiederci, la modalità che preferisce. Benissimo, quindi insomma opzioni tutte aperte. Una domanda di un ascoltatore, vediamo un po' Sabrina da Cremona. Sabrina, velocemente, grazie. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Velocemente, io scavallo, come hanno appena detto, la Regione Lombardia, l'Emilia Romagna, e il treno per Piacenza che mi permette di scavallare è stato soppresso, è un regionale, non esiste più, c'è solo un autobus. Così sto facendo per Fidenza, che è l'altro mio passaggio per scavallare da regione a regione. Mm. 150 chilometri che io devo fare perché sono pendolare tra Cremona e Bologna. Che mi tutti i giorni, Sabrina? No, non lo faccio tutti i giorni, però, proprio anche per difficoltà, nel senso che mi sarebbe davvero impossibile. Sono arrivata a metterci quasi 4 ore per questo viaggio, perché le coincidenze, come dicono i ferrovieri, non esistono più, è un termine soppresso. Andava a Napoli, da Milano andava a Napoli, Sabrina. E questo è un po' il tema che abbiamo detto. La saluto rapidamente perché il tempo sta rapidamente volando via. Truzzi, il caso di Sabrina cosa ci suggerisce? Il caso di Sabrina è emblematico di quello che accennavo, cioè a dire: non ci sono più categorie di mobilità, l'alta velocità serve ai pendolari e quella tradizionale diventa fondamentale che sia integrata. Ferro, autobus e tutto sono mezzi di trasporto che vanno bene, ma devono consentire il tempo più veloce possibile di destinazione lavoro-casa. E qui c'è stato fatto un passo indietro. Ecco, mi dispiace proprio che nel cuore della Padania ci sia situazioni, direi, da sud sottosviluppate. Ecco qua, Marco D'Ancona, rapidissimo, grazie. Il suo tema pure Deborah, è molto... Nicoletta, buongiorno, sì. Veloce, grazie. E niente, a me è capitato, soprattutto a mia moglie, di far la tratta Reggio Emilia Ancona, costo del biglietto 30 euro, freccia bianca, non ha potuto fare biglietto in biglietteria o internet, l'ha fatta a bordo dal controllore, 50 euro in più, 80 euro. A me mi è sembrato uno sproposito. Effettivamente, proprio. Mancini, addirittura, sì, sappiamo che ovviamente anche per una lotta ai furbetti del trenino, chiamiamolo così, perché c'è sicuramente un po' che ci può marciare, no? Che sale al volo e magari riesce pure a farla franca se non passa il controllore, ma da 30 euro a 80 mi sembra un po' tanto, una sanzione un po' più contenuta? La sanzione prevista per chi viaggia senza biglietto, perché a tutti gli effetti nel momento in cui euro, uno sta viaggiando senza biglietto è questa. Purtroppo c'è il problema, ha detto lei, il problema dei furbetti, il problema insomma di Nantes. Ma se questa signora fosse avesse cercato subito il controllore per chiedergli immediatamente, guardi, non l'ho fatto in tempo, cioè il fatto di essere stata pescata è un conto, ma se anche si fosse autodenunciata al volo non avrebbe avuto uno sconto sulla sovrattassa? No, ci sono circostanze in cui questo avviene e l'applicazione delle regole come sempre dovrebbe avvenire con grano salis, però le regole sono regole e quando la flessibilità diventa eccessiva si rischia, come spesso accade in Italia, di passare, come dire, situazioni che conosciamo. Comunque, bene. Insomma, stamattina ci fa piacere aver quantomeno argomentato questa buona notizia. Grazie a Marco Mancini e a Furio Truzzi per essere stati con noi. Truzzi, io la richiamo nei prossimi giorni per magari fare una breve rassegna stampa invece sull'altro tema che stamattina non ce la facciamo ad affrontare, il fatto che c'è questa marcia indietro per la decisione del TAR del Lazio che ha sospeso la sanzione e gli effetti della decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato sulle commissioni applicate dall'ACI per il pagamento del bollo auto con carta di credito e bancomat, quindi dobbiamo tornare a ripagare queste commissioni. Vedremo se ci sarà un altro step di questa battaglia. Adesso velocemente la borsa e poi la pagina di cuore. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta cuore e denari. Lo zoo è ufficialmente aperto. Vero, la vecchia le fattoria. Oche ci sono. Hai parlato di gallo, hai parlato di toro. Del cane a sei zampe di Eni, del leone. Leone di Trieste. Non abbiamo parlato della merla. Eccoci. Sono le giornate della merla. Sapete l'origine di questa leggenda? 800240024 per darci la risposta giusta. Al primo ascoltatore che interviene in diretta un libro della libreria di Cuore Denari. Naturalmente autografato dalle due oche. Ma c'è anche dalle altro, due paperelle. Certo, sì. Però sono giorni, e scherzi a parte, in cui l'inquinamento picchia duro. Le nostre città, le nostre case stanno sempre più diventando delle camere a gas e, lo sappiamo, la salute è gravemente e costantemente minacciata. Ne parliamo oggi col dottor Sergio Arari, direttore dell'unità operativa di pneumologia, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche all'ospedale classificato San Giuseppe Multimedica di Milano. Buongiorno dottor Arari, bentornato e finalmente. Bentornato. Buongiorno a voi. Eccola qua. Dottor Arari, si è appena conclusa la seconda conferenza internazionale sull'inquinamento atmosferico che si è tenuta proprio a Milano. Un evento, come si dice, di portata internazionale che ha visto la presenza dei massimi esperti in materia. Che cosa è emerso di nuovo? Che cosa vi siete detti di interessante che possa arrivare anche a noi? Sì, abbiamo organizzato venerdì e sabato scorso con il professor Vannucci e il professor Forestiere questo secondo evento a cui hanno partecipato esperti di tutto il mondo e anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per fare un po' il punto di quanto è stato fatto, di quali sono le nuove conoscenze e di quanto si può ancora fare, che è molto. Diciamo che le cose che credo siano più innovative per chi conosce meno l'argomento in termini scientifici sono state queste. Sulle novità sul fatto che l'inquinamento veramente si manifesta come un qualcosa che attacca il nostro organismo nel suo complesso, quindi non solo l'apparato respiratorio e cardiovascolare, certo, anche su questi due apparati abbiamo informazioni ulteriori, più approfondite sui danni che arreca l'inquinamento, ma anche manifestazioni che erano meno attese, per esempio l'associazione fra inquinamento e sviluppo di diabete oppure il ritardo cognitivo degli adolescenti oppure l'effetto sulle donne in gravidanza sia in termini di ritardo di sviluppo fetale sia in termini di ipertensione e di altri disturbi come l'eclampsia, l'influenza sui disturbi del comportamento come dicevo prima e dell'attenzione nei bambini. E poi altri dati molto interessanti, anche se purtroppo inquietanti, sull'azione dell'inquinamento sulle malattie neurologiche come la demenza vascolare, la sclerosi multipla e anche l'azione, molti di questi sono studi peraltro italiani, dell'ozono nel favorire le riacutizzazioni di malattie come il Parkinson. Quindi un'azione complessiva dei diversi inquinanti che purtroppo non è confinata a due importanti apparati come quello respiratorio e cardiovascolare, ma si estende a tutto il nostro organismo con quindi degli effetti nocivi molto più diffusi e complessi di quanto ci saremmo aspettati solo 10 anni fa. Quindi nuove evidenze sull'azione dello smog, sulle malattie metaboliche, ha citato il diabete, neurologiche, Parkinson, demenza, sclerosi multipla. Se volete saperne di più 800240024, questi sono dati freschissimi, come si dice, appena commentati durante questo importante appuntamento. D'altronde, dottor Arari, sono anni che il tema dell'inquinamento occupa le pagine dei giornali e ogni anno puntualmente si parla di emergenza, di allarme per la salute. Si direbbe che è un tema sempre verde, dottor Arari, se il rimando al colore non fosse stonato. Esatto. Ma in tutti questi anni, come lei ci ha anticipato, medici, clinici, ricercatori, epidemiologi hanno lavorato per raccogliere dati che hanno permesso di acquisire le conoscenze scientifiche a cui lei accennava, conoscenze sempre più approfondite e dettagliate sulla relazione qualità dell'aria e salute. E l'attenzione è volta sempre alle popolazioni più vulnerabili e fragili. Lei ha citato le donne in gravidanza, naturalmente a essere colpiti sono anche i bambini e gli anziani. Partiamo dai bambini che ci stanno particolarmente a cuore. Da sempre i bambini di città nell'immaginario collettivo vengono considerati deboli e fragilini, ma dal punto di vista rigorosamente scientifico, qual è il rischio reale che corre un bambino di oggi rispetto a uno di 30 anni fa, dottor Arari? In realtà non sappiamo se i rischi rispetto a 30 anni fa siano aumentati. Il problema è che adesso li conosciamo e un tempo non li conoscevamo. Sì. È un po' come 50 anni fa col fumo di sigaretta. Oggi si sanno delle cose che prima degli studi che hanno fatto la storia sul fumo di sigaretta non sapevamo quanto facesse male. Oggi noi sappiamo che nei bambini l'inquinamento è strettamente correlato alle bronchiolitti, una malattia che può anche essere seria, alla frequenza di asma bronchiale e anche alla gravità delle riacutizzazioni di asma bronchiale, a disturbi, come dicevo prima, cognitivi dell'apprendimento e a iperreattività con deficit di attenzione. Abbiamo poi un ritardo nello sviluppo dei polmoni. E quindi direi che purtroppo il quadro è drammatico. È molto forte. Sì. Ma se, dottor Arari, il buon senso suggerisce, potendolo, di far cambiare aria ai bambini, di portarli nei weekend in aree meno inquinate, considerando che gli spostamenti, anche per trascorrere i fine settimana fuori città, contribuiscono ad aumentare i livelli di smog. Ma ci sono evidenze, dottor Arari, o è solo il buon senso? È solo il buon senso, certamente, però noi sappiamo che i picchi di inquinamento, che non sono l'unico problema dell'inquinamento, ma che poi spesso anche le azioni di tipo il blocco delle auto piuttosto che le domeniche senza auto sono volte al contenimento dei picchi, ma esiste anche un problema che invece è legato ai livelli alti costantemente degli inquinanti, però andando via in aree meno inquinate eviti almeno quei giorni di picchi che altrimenti ai quali altrimenti saresti esposto stando in una città ad alti picchi, ad alte concentrazioni di inquinanti. Certo che è difficile, perché bisognerebbe dire allora non esco. Il problema è che anche l'aria delle nostre case non è certo meno inquinata di quella che respiriamo fuori. Deborah. Sì, no, infatti ci stavo riflettendo proprio questo weekend in cui ho camminato. Ieri ho fatto una bellissima passeggiata appunto a Milano, ma effettivamente mi sono detto sarebbe stato meglio stare a casa, visto che forse un po' sono condizionata dal fatto che noi ce ne occupiamo magari in maniera così intensa per cuore e denari, forse chissà meno, magari è meno condizionato. Detto ciò, è una riflessione che si fa per chi cammina molto come noi, no? Nicoletta, che dottor Arari, io vedo ancora gente, io abito vicino ad un parco, vedo anche gente che va a correre al mattino che non riesce a rinunciare a questa abitudine nonostante la qualità dell'aria di questi giorni che non sia assolutamente utile fare attività sportiva in questi giorni. Ma ci sono, come dire, degli aspetti che vanno valutati anche positivamente, perché l'attività sportiva fa bene al nostro organismo, ha un'azione fortemente salubre, quindi dobbiamo bilanciare quelli che sono gli aspetti negativi legati all'iperventilazione che si attua necessariamente durante l'attività fisica e quindi a un aumentato scambio con un'area inquinata, con l'azione positiva che comunque l'attività sportiva ha sul nostro organismo. Io credo che, almeno che proprio non ci siano picchi di giornate molto elevati, fare attività fisica in un'area come quella che diceva prima lei, Nicoletta, vicino a un parco, almeno di situazioni predisponenti particolari, come situazioni asmatiche, allergiche, sia comunque qualcosa che possa essere fatto con una certa tranquillità. Non siamo per fortuna ai livelli di inquinamento cinese, dove peraltro ci ha fatto vedere un grande esperto cinese come la situazione, pur rimanendo drammatica, sia nettamente migliorata grazie alle politiche che hanno cominciato a essere sviluppate. Quindi delle cose si possono fare, si traducono poi realmente in atti concreti. Dall'altra parte, credo che vada però scelto dove fare l'attività fisica con una certa attenzione. Una cosa è farla in una strada super trafficata e su cui esistono delle evidenze scientifiche forti, e un'altra cosa è farla appunto in un parco. Ecco, prima di far andare i piedi bisogna accendere il cervello. Che sì. Poi, ecco, questo è un po'. Vedo auto fermi in colonna con motore acceso e madri fumando, che fumano con il bambino nel dietro in macchina. Ma di che cosa stiamo parlando? E in effetti è vero, questa educazione, questa formazione ad una cultura anche che rispetti l'ambiente, quindi anche la nostra salute, stenta ancora a svilupparsi. Non abbiamo ancora chiaro che salute e ambiente sono due facce della stessa medaglia. Dottor Harari. Io credo che ci siano degli aspetti dei quali si devono fare individualmente carico i cittadini, quando cambiano la macchina, quando promuovono il cambio delle caldaie nei loro condomini, quando scelgono come portare i loro figli a scuola, che mezzo di trasporto utilizzare, se accendere o non accendere un camino, altra struttura molto inquinante che nella nostra Lombardia gioca un ruolo non irrilevante. Quindi ci sono dei comportamenti che spettano all'individuo. C'è poi un problema di coscienza civile che fa parte della collettività e che è strettamente correlato anche all'azione politica, che è francamente deficitaria. Adesso noi, a proposito, ci fermiamo per andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, ritorniamo subito dopo insieme per sviluppare per parlare di queste nuove evidenze sull'azione dello smog sulle malattie metaboliche. Parliamo di diabete, neurologiche, ce lo spiegherà il dottor Harari, che resta ancora con noi. Se volete intervenire, 800 24 00 24, tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Cuore e Denari. E che aria tira lì da voi? 800 24 00 24, raccontatecelo al nostro numero verde, dottor Harari. Se è vero che l'organo bersaglio sono i polmoni, lei ha ben sottolineato, i danni si registrano anche a livello del cuore e del cervello, ma anche su malattie metaboliche e neurologiche. Ci spiega questa relazione che lei ha anticipato e che ha incuriosito molti i nostri ascoltatori? Sì, in maniera molto divulgativa, quello che accade con gli inquinanti è che in parte si depositano nei nostri polmoni, come un talco che si deposita su una superficie, ma in parte penetrano, quando sono più piccoli, attraverso il filtro polmonare nel nostro torrente circolatorio, cioè nel sangue e nei vasi, e da qui arrivano tutto l'organismo. Inoltre, questo, chiamiamolo così, talco che si deposita sui polmoni determina una reazione del nostro organismo con la liberazione di una serie di sostanze infiammatorie che giocano il ruolo su più organi e apparati, quindi appunto dal diabete al cervello. Quello che è stato documentato con degli studi importanti, anche fatti in Spagna con una risonanza magnetica nei bambini, è che c'è un'associazione stretta fra alcuni di questi inquinanti e ritardi dell'apprendimento, disturbi cognitivi e anche manifestazioni di iperreattività intellettiva. Quindi questo è anche, per esempio, molto importante per quelle scuole che sono vicine a strade molto trafficate, perché tanto più traffico c'è vicino e a breve distanza dall'edificio scolastico, tanto più ci si e può intuire come ci sia una ricaduta negativa sull'aria che respirano questi bambini. Quindi c'è anche un impatto in termini di pianificazione delle scuole molto importante dagli studi che stanno emergendo. Dottor Arari, ci lasci con due raccomandazioni, due consigli, ecco, perché insomma, come abbiamo sempre e più spesso ripetuto con Deborah, possiamo correggere la nostra alimentazione, però l'aria, quella che abbiamo, respiriamo, perché non siamo ancora capaci a vivere senza respirare. Io credo che le cose che siano più facili da attuare per cercare di difendersi sono quelle che riusciamo a fare nelle nostre case, cosiddetto inquinamento indoor, e nell'attenzione verso i nostri figli, cercando di stimolare le scuole a una certa attenzione negli ambienti chiusi. Quello che possiamo fare nelle nostre cose, la prima cosa è non fumare, perché nell'ambiente chiuso chiaramente le concentrazioni che poi arrivano sono molto alte, si creano sono molto alte. L'altra cosa sono l'uso dei camini, che purtroppo aumenta in maniera significativa, in realtà si pensa che sia una cosa ecologica, ma non lo è. Gli altri aspetti sono attenzione agli incensi, a quelle le specie di deodoranti, diciamo così, che vengono utilizzati per gli ambienti, attenzione agli umidificatori, che bisogna cambiare spesso i filtri, sennò diventano un pabulum di sostanze che possono essere nebulizzate in tutta la casa, attenzione a certi vernici, a certi detersivi che possono anche qui contenere delle sostanze inquinanti che possono giocare sfavorevolmente. Quindi cerchiamo di non peggiorare la situazione, possiamo farcela. Dottor Arari, noi l'aspettiamo presto qui perché ci interessa molto parlare con lei, avere da lei indicazioni anche per, naturalmente, per proteggere la nostra salute generale, ma anche quella del nostro apparato respiratorio. Sono tanti i genitori che chiedono consigli per i loro bambini che si ammalano ripetutamente in inverno. Intanto la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo una buona giornata. Grazie a voi, arrivederci, alla prossima. Grazie, allora sappiamo che l'aria che respiriamo all'interno delle nostre case è molto più contaminata di quel che si crede. L'OMS ha ritenuto necessario pubblicare delle linee guida per la qualità dell'aria indoor e anche l'Istituto Superiore di Sanità nei giorni scorsi ha presentato un vademecum dal titolo L'aria della nostra casa, come migliorarla. In linea con noi abbiamo il dottor Gaetano Settimo, che è ricercatore del reparto Igiene dell'aria del Dipartimento Ambiente e Salute, coordinatore del gruppo di studio nazionale sull'inquinamento indoor dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno. Buongiorno dottoressa e buongiorno radioascoltatori. Sì, mi fa piacere che chi mi ha preceduto ha sottolineato l'importanza del tema dell'inquinamento indoor, tematica emergente di salute pubblica sempre più importante, perché in tutti questi anni purtroppo abbiamo isolato troppo i nostri edifici, ambienti quindi poco ventilati, e abbiamo portato all'interno del nostro ambiente indoor, quindi nel nostro edificio, ma anche all'interno dei nostri uffici, scuole, ospedali, tutta una serie di sorgenti che possono costituire un potenziale rischio soprattutto per la classe più vulnerabile della nostra popolazione, come i bambini o persone che hanno già un carico di malattia. Noi con il gruppo di studio nazionale sull'inquinamento indoor stiamo cercando di fornire tutti quegli strumenti tecnico-scientifici per arrivare anche in Italia a una legislazione sul tema dell'inquinamento indoor, come è già presente in molti paesi europei. Stiamo cercando anche di far capire che il decreto legislativo 81 per quanto riguarda gli ambienti di lavoro su questo tema specifico va in forte crisi, e per questo abbiamo iniziato tutta una serie di attività, non solo di formazione ma anche di informazione, con la pubblicazione di questo vademecum che prende in considerazione alcuni dei punti fondamentali presenti sul tema dell'inquinamento indoor. Abbiamo evidenziato, cercando di sfatare uno dei miti, che l'odore per esempio è un indicatore di pulizia. Normalmente tutte le sostanze che vanno quando uno dice che buona aria di pulito, di fresco, di pulito, attenzione, esattamente, sono tutte sostanze che vanno a stimolare il nostro olfatto, ma sono sostanze di origine chimica, che imitano la sollecitazione invece delle, del bouquet naturale. Abbiamo evidenziato anche quegli aspetti legati spesso a un uso improprio eccessivo che si fa dei detersivi o dei detergenti, e questo chiaramente spesso e volentieri si riconduce non solo a un aspetto legato a un maggior consumo di acqua o energia elettrica, ma anche a un possibile impatto sulla salute. Abbiamo evidenziato anche il tema legato al ricambio, quindi alla ventilazione, la semplice ventilazione aprendo la finestra, ma aprendo la finestra, se possibile, quella più lontana dalle principali strade trafficate su cui si affaccia. Per quanto tempo bisogna lasciare aperta la finestra? Guardi, perché questo è un dibattito, vero? Sì. Allora, un po' aperta oppure spalancata? Shock di 5 secondi oppure? Esattamente, noi con tutta l'attività di monitoraggio abbiamo evidenziato che 4 minuti, 4-5 minuti al massimo consentono un buon ricambio di aria di una stanza, di un'abitazione. Quindi già con pochissimi minuti i livelli degli inquinanti presenti vengono diluiti, e quindi si abbatte la concentrazione degli inquinanti. Come dicevo, attenzione ad aprire le finestre più lontane dalle strade più trafficate. Allora, il link al Vademecum lo trovate sulle pagine di Cuore Denari. Dottor Gaetano VII tornerà con noi, perché vogliamo fare anche un ABC delle parole che spesso sentiamo e leggiamo sui giornali riguardo all'inquinamento, ma che di cui non conosciamo esattamente il significato. Per cui tornerà sicuramente a trovarci. Intanto andiamo a sentire Sandro, non ce la facciamo, che ha dato la risposta esatta comunque della leggenda della mer, che era finita per scaldarsi, era bianca, in un camino, ed è uscita nera. E allora Sandro, se non li facciamo più accendere qua, non scaldiamo più le merle, attenzione. A Sandro, allora, buongiorno Sandro, la saluto così, faccio sentire la sua voce. Buongiorno a tutti. Ecco, un buongiorno da Sandro, che riceverà a casa il nostro libro, un buongiorno anche da Nicoletta e Deborah, che torneranno domani. Buona giornata a tutti.